infatti dico sempre a tutti, dei miei clienti, io ho una galleria a Milano, al centro di Milano, da Milano medievale, via Santa Marta, dico a tutti i miei clienti, comprate solo le cose sane, giuste, andate dagli antiquari, io dico che espongono il marchio FIMA perché sono presidente di una federazione che raccoglie 700 antiquari distribuiti in 28 associazioni, la federazione è un insieme di associazioni, perché loro vi garantiscono il bene, certo. Non fidatevi dei clandestini, io dico li chiamo clandestini quelli che sanno tutti, tutto, non fidatevi di loro, andate dagli antiquari seri. Quando ho cominciato io a vivere e a lavorare da antiquari, io comperavo dalle persone care, dalle persone importanti, perché la selezione la facevano già loro e io dovevo imparare. E questo è un buon suggerimento, Presidente, per coloro che ci ascoltano e che magari, come dicevo all'inizio, si possono essere ritrovati anche in una situazione familiare e personale particolare della propria vita. Eredito una casa dalla nonna, ho la sensazione di avere qualche pezzo interessante fra i vecchi mobili di questa casa, un bel armadio con qualche anno sulle spalle, argenteria, una specchiera antica. Come posso fare una verifica sul valore di questi pezzi all'interno della mia abitazione? A chi mi rivolgo? E soprattutto, come posso poi verificare che effettivamente magari quanto è stato periziato sia corretto? Dunque, io ritengo che ci si debba rivolgere all'associazione territoriale se la si conosce, altrimenti ci si rivolge alla Federazione Italiana che, ricevuta la notizia, la comunica al presidente e all'associazione territoriale che farà un sopralluogo e poi se c'è molto materiale di diverso tipo e riunisce una commissione, riunisce gli specialisti di ogni settore.